GR24, il sole 24 ore. Unicredit, il giorno della verità, alle 18 il consiglio d'amministrazione straordinario. IOR, indagato, Gotti tedeschi, sequestrati 23 milioni di euro. Due feriti nel crollo di una palazzina a Palermo, forse per una fuga di gas, non si sa ancora se ci sono altre persone sotto le macerie. Sta meglio il bimbo nato durante un'altra lite fra medici all'ospedale di Messina. Mi hanno impedito di entrare in sala parto, racconta il padre. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Fra pochissimo parleremo del sequestro milionario allo IOR. Prima però un aggiornamento sulla vicenda Unicredit, perché ci sono importanti novità dell'ultima ora. Torniamo dunque a collegarci con Raffaella Calanda, che si trova fra Piazzetta Cuccia e Piazza Cordusio. Sì Piera, le novità dell'ultima ora arrivano da indiscrezioni di Piazza Cordusio, ossia sarebbe stato messo a punto un accordo per Profumo. A quanto riporta l'agenzia di stampa Radio, corra proprio per evitare uno scontro troppo acceso nel CDA decisivo di questo pomeriggio alle 18, i grandi soci e i grandi azionisti e anche importanti studi legali in queste ore, nelle ore di questa mattinata, avrebbero messo a punto un accordo per il presidente, appunto per l'amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo, che è dato in uscita per questa sera. Il destino appunto dell'amministratore delegato lo deciderà il CDA straordinario di questa sera, che come dicevamo è fissato alle 18, e queste sono state per l'amministratore delegato di Unicredit, ma anche per l'intero sistema finanziario, ore di consultazioni, mediazioni e pressioni. E forse proprio per mettere a punto questo accordo di cui parla l'agenzia di stampa Radio, con il presidente Unicredit Dieter Rampol, è rimasto chiuso nel suo ufficio e non è venuto al CDA di Mediobanca qui in Piazzetta Cuccia, dove invece sono arrivati, ma sono rimasti a bocca chiusa, nomi come Fabrizio Palenzona, che è presente in entrambi i CDA, o il finanziere tunisino Tarak Ben Ammar, considerato tra i principali trade union con i libici. Libici che, lo ricordiamo, sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso delle tensioni tra i vertici Unicredit. Il presidente Rampol, la grande assente, appunto dicevamo qui in Piazzetta Cuccia, non ha gradito di non essere stato informato della salita al 7,5% complessivamente della Libyan Investment Authority e della Central Bank of Libya, una crescita di cui la stessa banca milanese entro il 30 settembre dovrà dare chiarimenti a Banca d'Italia sui rapporti tra soci e management. E mentre dunque a Piazza Cordusio in queste ultime ore si lavora ai dettagli in vista del CDA di questa sera, appunto si mettono a punto anche le posizioni di chi è stato più aspramente contrario alla linea di Profumo nella gestione del caso dei limpici, come il presidente Rampol o come anche le fondazioni. Piera. Grazie Raffaella Calandra. Dunque si starebbe profilando un accordo in vista del CDA di questo pomeriggio per Unicredit, e questa mattina è intervenuto a Radio 24 su questa vicenda il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Questo tipo di battaglia è consona, diciamo, a quelle che sono le posizioni della Lega, cioè battaglia a favore del territorio, e quindi per mantenere in questo caso una grandissima banca nazionale legata al territorio. Credo che a questo si sia aggiunto il malumore di tanti soci occidentali, in particolare tedeschi, che hanno visto qualcuno entrare. Insomma, se tu hai una banca nella quale sei socio, nella quale hai un certo tipo di responsabilità, e ti trovi dalla sera alla mattina che qualcuno in casa e nessuno ti ha avvisato e qualcuno lo sapeva, è come se tu avessi il custode di casa tua che ti va a entrare uno senza avvisarti, insomma, ecco, più o meno quello che è successo in Unicredit. Sentiamo come reagisce la borsa in questa giornata. Deborah Rosciani. Buongiorno, questa mattina il titolo era piuttosto preoccupato rispetto alle possibili, anzi a questo punto estremamente probabili, dimissioni di Alessandro Profumo. Le quotazioni del titolo di Piazza Cortusi sono partite con un ribasso di quasi 4 punti per poi risalire la china. Adesso il titolo cede lo 0,8%, 1,92 euro, ma il segno è che il mercato sembra abbastanza turbato rispetto a questa clamorosa uscita di scena, anche se preannunciata proprio per per le tensioni sulla presenza dei libici nel capitale. Complessivamente la borsa oggi è positiva, attende la riunione della Banca Centrale Americana sui tassi di interesse, ma Unicredit continua ancora ad essere a ribasso, meno 0,8%. Piera. Grazie a Deborah Rosciani. Lo dicevamo in apertura, sequestrati 23 milioni di euro dello IOR, la Banca Vaticana. Ci racconta tutto Domenico Lusi da Roma. Buongiorno, il presidente dello IOR, Ettore Gotti Tedeschi, è indagato insieme ad un altro alto dirigente dell'Istituto per opere religiose dalla Procura di Roma. Le indagini, che si riferiscono a presunte omissioni legate alla violazione della normativa antiriciclaggio, hanno portato oggi al sequestro di 23 milioni di euro dello IOR depositati su un conto della sede romana del Credito Artigiano. Il sequestro preventivo è stato eseguito dalla Guardia di Finanza ed è stato disposto dal GIP Maria Teresa Covatta, che ha accolto le richieste del procuratore aggiunto Nello Rossi e del sostituto Stefano Roccofava, titolari dell'indagine. Alla base del sequestro c'è una segnalazione dell'unità informazioni finanziarie della Banca d'Italia, che lo scorso 15 settembre aveva già disposto la sospensione per 5 giorni di 2 operazioni sospette disposte dallo IOR su un conto aperto appunto presso la sede del Credito Artigiano. E si tratta della movimentazione di 20 milioni di euro destinati all'istituto di credito tedesco JP Morgan Frankfurt e di 3 milioni destinati alla Banca del Fucino. Grazie Domenico. Tutto 28 milioni e il sequestro riguarda appunto le prime 2 operazioni di cui ho parlato. Grazie Domenico Lusi, che sentiremo nelle prossime edizioni di GR24. Ci trasferiamo invece a Palermo, dove, come sapete, è crollata una palazzina di 3 piani. In diretta Nino Amadore. Sì, buongiorno a tutti. Sì, si è risolta per fortuna con tanta paura e pochi danni alle persone, per fortuna, il crollo delle 11:30 avvenuto nella zona del quartiere popolare dell'Arenella, il borgo dell'Arenella, nella parte ovest della città. Non è stata un'esplosione, non c'è stato uno scoppio di una bombola, ma a quanto pare un crollo strutturale della palazzina che era interessata da lavori. Le persone coinvolte erano tutte all'esterno, 2 passanti più altre, in tutto sarebbero 6, più altre che abitavano all'interno della palazzina e che erano uscite poco prima del crollo, almeno questo secondo le ultime ricostruzioni. Quindi nella, insomma, poteva andare molto peggio, Nino. Poteva andare molto peggio perché nella palazzina vivevano 9 persone, 2 nuclei familiari, e le donne che erano in casa in quel momento hanno sentito dei rumori strani e sono uscite. Sono precipitate fuori. Grazie a Nino Amadore da Palermo. Noi ci ritrasferiamo a Roma invece, perché giornata inquieta anche dal punto di vista politico. Domani il voto sulle intercettazioni a Cosentino e in Sicilia nasce il governo Lombardo Quater. Elisabetta Fiorito. Sì, la giustizia è sempre al centro dell'attenzione del premier Silvio Berlusconi. Questa sera a Roma, vertice a Palazzo Grazioli con i coordinatori del PDL per decidere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nei confronti di Nicola Cosentino in vista della seduta di domani a Montecitorio. Saranno presenti Sandro Bondi, Ignazio La Russa e Denis Verdini. Per quanto riguarda però il fronte parlamentare, è decisa anche la data di intervento di Berlusconi al Senato. Il premier parlerà prima il 28 alla Camera, come si sapeva, e adesso il 30 Palazzo Madama, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo del Senato. Ma per capire la tenuta del governo, anche occhi puntati sulla Sicilia. Oggi pomeriggio il governatore Raffaele Lombardo dell'MPA annuncerà il nuovo esecutivo regionale, il numero 4, a comporlo UDC, API, FLI e anche PD. Di fatto il PDL sarà all'opposizione e l'Italia dei Valori denuncia lo squalido inciucio e chiede al PD di decidere con chi stare. Ma la politica regionale siciliana è importante per l'eco che può suscitare in Parlamento a Roma, con un PDL sempre più isolato e sempre più dipendente dalla Lega, con voti insufficienti senza i Finiani. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E come sapete, seconda giornata dedicata dall'Assemblea dell'ONU agli obiettivi di sviluppo del millennio, e proprio questa mattina in bianco e nero nel nostro sondaggio vi chiedevamo: dimezzare la povertà entro il 2015, obiettivo raggiungibile? Era la nostra domanda di oggi. Il 23% di voi ha risposto di sì, mentre il 77% ha risposto di no. Non è più in coma farmacologico il piccolo Josué, il bambino nato una settimana fa a Messina con una sofferenza post-ischemica, dopo che il primario del reparto ha sospeso il cesareo già fissato, imponendo un parto naturale. Il piccolo sta meglio, ma a sfogarsi ora è il padre, Nicola Mangraviti. Il bambino sta, diciamo, piano piano migliorando. Io e la mamma speriamo soltanto che il bambino esca, diciamo, più possibile illeso da sta storia. E chi ne ha colpa ne paghi le conseguenze di mio figlio. Se la parto il dottore che era lì quel pomeriggio, sapendo le condizioni della moglie, di mia moglie, che il bambino era grosso, ha preferito fare un cesareo, di cui mi hanno chiamato per mettere la firma e il primario abate mi ha impedito di entrare in sala parto per mettere la firma. E sempre il primario, senza guardare ecografie, che il 6 settembre era 3,6 kg il bambino. E quindi si presume che dopo una settimana, che lui è nato il 13, deve essere già superiore ai 4 kg. Mia moglie era sfinita, voleva fare il cesareo per questo motivo e lui ha insistito di no. E da qui sono le conseguenze. Non è inutile che dicono al papardo che il parto sia stato dei migliori, perché non è vero, altrimenti mio figlio non si trova in queste condizioni. Da Palermo a Milano, la cronaca milanese per un'altra vicenda che ha dell'incredibile. Dopo 3 giorni Milano è ancora alle prese con le conseguenze del nubifragio di sabato scorso. L'acqua che ha allagato la periferia nord della città è arrivata fino alle gallerie della metropolitana e per riparare tutti i danni ci vorrà ancora del tempo. Tanto che è polemica, mentre gli operai lavorano anche questa mattina e proprio a vedere che cosa sta succedendo è lì per noi Giovanni Capuano. Sì, buongiorno, io mi trovo in Viale Zara lungo l'asse più colpito dal nubifragio di sabato sera con esondazione del Seveso. Mi trovo proprio sopra la grande voragine che ha inghiottito i binari delle linee tranviarie. Una macchina e ha rotto anche le pareti della linea 3 della metropolitana causando il blocco di 4 fermate. Blocco che prosegue ancora questa mattina, è una giornata ancora di forti disagi in tutta la zona nord di Milano, anche se lentamente sta tornando alla normalità la circolazione stradale lungo questo che è uno degli assi principali che da nord porta verso la città. Sono chiuse ancora, dicevo, le 4 stazioni della linea 3 della metropolitana completamente allagate da acqua e fango che ha sommerso anche un convoglio della metropolitana che sabato notte non è stato spostato in tempo. I tecnici sono al lavoro ma il ripristino del servizio potrebbe avvenire non prima di venerdì. Questa sera in realtà potrebbe aprire una delle 4 fermate, quella di stazione centrale, e lo stesso vale per le linee tranviarie interrotte. Grazie. È impossibile al momento quantificare i danni. Da Milano è tutto. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato della vicenda Unicredit. Secondo l'agenzia di stampa Radio Cor sarebbe stato raggiunto un accordo per evitare lo scontro in consiglio di amministrazione. Poi abbiamo parlato dello IOR indagato, Gotti Tedeschi, anche questa è una notizia dell'ultima ora, sequestrati 23 milioni di euro. Poteva andare molto peggio, stiamo parlando del crollo della palazzina di 3 piani a Palermo, non ci sarebbero vittime, sarebbero infatti tutti usciti per degli scricchioli che si sentivano all'interno della casa. E riprendiamo dalla vicenda Fincantieri, ma anche Alitalia. Proteste dei lavoratori Fincantieri in varie città questa mattina e su Alitalia la smentita sul piano di esuberi. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, partiamo dalla vicenda Fincantieri. Come dicevate da studio, ci sono mobilitazioni un po' in tutti i siti produttivi dislocati nel paese. I lavoratori hanno bloccato nell'ambito delle 8 ore di sciopero già programmate la statale sorrentina di Castellammare di Stabia a Napoli. Un'assemblea molto affollata si è svolta inoltre nell'altro stabilimento della Fincantieri in provincia di Genova. Un migliaio di lavoratori ha manifestato invece a Palermo. Impianti questi che secondo i timori dei sindacati sarebbero a rischio ridimensionamento. È stato fissato intanto per lunedì 27 settembre l'incontro richiesto da FIM, FIOM e UIM nazionali con i vertici dell'azienda per avere chiarimenti proprio sul piano industriale 2010-2014. Altro fronte caldo, quello di Alitalia. Nei giorni scorsi è circolata la notizia di 1500 lavoratori a rischio di mobilitazione. Oggi interviene l'azienda, in un comunicato vengono definite illazioni le notizie su un presunto piano esuberi. Viene inoltre assicurato che l'eventuale evoluzione degli organici in termini di efficienza e flessibilità organizzativa derivante dal miglioramento dei livelli di produttività saranno affrontati quando necessario di concerto con le organizzazioni sindacali. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Migliete. Nessun taglio al personale all'Italia, risulta al governo. Così questa mattina a Sky TG24 il ministro delle infrastrutture Altero Matteoli ha commentato le indiscrezioni di stampa del fine settimana. Recentemente ho avuto modo di parlare con l'amministratore Sabelli, non mi ha parlato di questi esuberi. Lo leggo sui giornali, non voglio dire che i giornali si sono inventati questa notizia. Comunque, prima di dare un giudizio, vorrei capire di cosa si tratta. E nuovo incontro proprio in questi minuti fra Lega Calcio e Associazione Italiana Calciatori sul nuovo accordo collettivo, in diretta Andrea Viali. Si Piera, nuovo round in via Allegri nella trattativa per il rinnovo del contratto dei calciatori, e si cerca in particolare un'intesa in extremis per evitare lo sciopero che resta programmato per questo fine settimana. I nodi da sciogliere sono sempre quelli dei trasferimenti e della gestione dei giocatori messi fuori rosa, due punti sui quali l'associazione calciatori non intende cedere. Arrivando nella sede della Federcalcio, il numero due del sindacato dei giocatori, Grosso, ha smentito le voci circolate in questi giorni sull'ipotesi di una sospensione dello sciopero e ha detto che tutto dipenderà dall'andamento dell'incontro di oggi. Il presidente della Lega di Serie A, Beretta, si è mostrato comunque fiducioso e ha auspicato che oggi si possa arrivare almeno ad un rinvio e che quindi sabato e domenica si possa giocare regolarmente. Per ora dalla Federcalcio è tutto. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. C'è stata già una ripresa nel primo trimestre che poi è continuata successivamente molto più forte con il secondo trimestre del 2010. A livello di primo semestre noi abbiamo un 19% in più del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2009. Enrico Carraro è presidente del gruppo omonimo, azienda storica veneta che progetta, produce e commercializza componenti per le macchine agricole, veicoli commerciali, leggeri e trattori, e che nel 2009 ha vissuto un momento davvero difficile. Ma un momento drammatico più che difficile. Noi avevamo chiuso nel 2008 con 973 milioni di fatturato e siamo scesi nel 2009 a 487 milioni di fatturato, quindi è stato un calo molto importante. Un calo insomma del 50%. Esatto. Un calo che ha certamente preoccupato anche i 3.600 dipendenti di Carraro, di cui 2.000 in Italia. Ma quali sono stati gli ingredienti per la ripresa? L'ingrediente principale è sempre dato dal mercato. L'azienda in questo periodo si è più concentrata sui mercati emergenti, che sono l'India, che sono la Cina, che sono quelli che stanno trainando un po' in tutto il mondo la crescita. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'auto carica di armi ed esplosivo era stata trovata sul tragitto che avrebbe dovuto percorrere il presidente della Repubblica Napolitano in visita a Reggio Calabria lo scorso 21 gennaio. Oggi un arresto, a finire in manette è stato un 49enne considerato vicino all''ndrangheta. E questo invece succede in Campania. Operazione della squadra mobile di Caserta per l'arresto di 11 esponenti del clan dei Casalesi, tra i quali figura il noto boss Giuseppe Setola, già detenuto in regime di 41 bis. L'intervento della Polizia di Stato riguarda le attività estorsive perpetuate tra la primavera 2008 e i primi mesi del 2009 dalla frangia stragista dei Casalesi, guidata proprio da Setola, nei confronti di decine di gestori di bar dell'agro aversano e anche del litorale Domizio, ai quali veniva imposto l'acquisto di caffè con un marchio creato ad hoc. Insomma, chiedevano il pizzo su tutto, ma il business messo in piedi e scoperto dalla polizia la dice lunga su come i Casalesi avessero compreso il mondo dell'imprenditoria e le sue regole, che ovviamente usavano a modo loro. Il caffè veniva imposto a bar, salumerie, supermercati, esercizi commerciali che dovevano acquistare grandi partite e in realtà non veniva torrefatto dall'azienda dei Casalesi, ma soltanto imbustato. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Una coppia inglese in vacanza si scambia effusioni e viene aggredita. È accaduto a Pignataro, in provincia di Frosinone. La coppia in questione era composta da due uomini omosessuali regolarmente sposati nel loro paese. In Gran Bretagna, infatti, le coppie gay sono riconosciute. Sull'episodio ora è stata aperta un'indagine. Allarme usura in Italia. Il tributo pagato dai commercianti ogni anno è stimato in non meno di 20 miliardi di euro. La morsa dell'usura si stringe sui commercianti con un giro d'affari di 20 miliardi di euro negli ultimi due anni. Lo denuncia Confesercenti. Sono 200.000 i commercianti coinvolti, dice l'associazione SOS Impresa. Ma se si considerano anche piccole aziende e famiglie, le persone coinvolte arrivano a 600.000. Il tasso di interesse pagato sui prestiti supera il 10% mensile. Accanto all'usuraio di quartieri c'è anche l'usura gestita dalla mafia, che si stima vanta un giro d'affari di 6 miliardi annui e 70.000 persone coinvolte. Il presidente di Confesercenti, Marco Venturi, spiega la principale causa del fenomeno. C'è crisi e quindi prima di chiudere le attività, soprattutto le imprese decidono di fare anche questo passo, che noi consideriamo fortemente sbagliato, perché da quelle grinfie non si esce più. Le banche dovrebbero essere più vicine a famiglie e imprese, lo Stato deve creare tutte quelle condizioni per favorire, diciamo, l'accesso al credito anche per chi è in difficoltà. Campania, Lazio e Sicilia sono le regioni più toccate dal fenomeno, ma l'usura cresce anche al nord. Teresa Trillò da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una tossina sta infestando le colture di cozze nel Golfo di Trieste, per questo tutti gli impianti sono stati chiusi per decisione dell'azienda sanitaria locale. Sentiamo il responsabile dell'unità operativa veterinaria e igiene degli alimenti, Maurizio Cocevari. C'è un'alga che praticamente prolifera e libera una tossina, i nitili che sono dei filtratori accumulano questa tossina. C'è una tossina che, diciamo, è più innocua e un'altra che provoca delle diarree con sintomi di diarree, di coliche, anche violente. Con la positività viene emanata un'ordinanza di chiusura. È chiaro che una certa percentuale di prodotto riesce a raggiungere la commercializzazione, nonostante ci sia l'ordinanza, e scatti immediatamente un sistema di allerta nazionale in cui i produttori sono invitati a ritirare immediatamente il prodotto dal commercio. Settimana politica importante per Berlusconi, come abbiamo sentito nella prima parte di GR24, settimana importante per il Presidente del Consiglio anche sul fronte separazione con Veronica. Come l'attrice di Hollywood, armi e bagagli, una suite in un hotel di lusso quando le cose a casa non vanno più. O meglio, la signora Bartolini, o Lario e quasi ex Berlusconi, di suite ne occupa almeno due, più cinque stanze, sauna, palestra, insomma il minimo indispensabile nella dépendance all'Hotel de la Ville, albergo affacciato sul parco di Monza. La signora Lario è stata paparazzata mentre lasciava la casa di Macherio e veniva accompagnata in auto dalla guardia del corpo proprio nell'hotel monzese. Lei, come sempre, non commenta, ma potrebbe trattarsi dell'ennesima mossa suggerita dalla sua legale, nelle ore in cui gli avvocati definiscono il nuovo passaggio nella causa di separazione, dopo la marcia indietro dagli accordi del mese di maggio. In realtà Veronica Lario già da mesi aveva chiesto ad alcuni collaboratori di visitare altre ville in Brianza, che abbiano gli stessi requisiti della splendida abitazione di Macherio e che non abbiano bisogno di lunghi lavori di ristrutturazione. Il passato va gettato alle spalle prima possibile. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sergio Castellitto sarà il presidente della giuria internazionale del Festival Internazionale del Film di Roma, in programma dal 28 ottobre al 5 novembre. All'incarico aveva rinunciato Giuseppe Tornatore, che nel corso della mostra del cinema di Venezia aveva spiegato di essere troppo impegnato con il suo nuovo film. Un festival di letteratura dedicato alle donne, il Women's Fiction Festival di Matera, da giovedì 23 a domenica 26. C'è anche la possibilità per le aspiranti scrittrici di proporre i propri manoscritti nella borsa del libro, come spiega una delle organizzatrici, Maria Paola Romeo, al microfono di Alessandra Tedesco. La borsa del libro è un'occasione di incontro a tu per tu con gli addetti ai lavori dell'editoria, quindi ospitiamo ogni anno editor, agenti letterari, consulenti editoriali provenienti da tutto il mondo, che possano incontrare in una chiacchierata amichevole, in un contesto molto caloroso, bello, piacevole, lo scrittore. Cosa lo scrittore porta al festival? Le proprie idee, la sinossi del proprio libro, qualche capitolo, e lo presenta in quell'occasione in un appuntamento a tu per tu all'editore di riferimento. Negli anni ha sortito dei buoni risultati, per cui al Women's Fiction Festival delle scorse edizioni sono nati dei bellissimi rapporti che poi sono sfociati nella pubblicazione del libro. Un caso su tutti è Giuseppina Torregrossa col Conto delle Minne, che ha incontrato l'editor della Mondadori, Giulia Chino, e da lì è nato il libro. Prima di chiudere, una notizia arrivata in questo istante in redazione: un pacco con un detonatore, filo e liquidi è stato trovato sui binari del treno ad alta velocità francese TGV all'altezza di Massy-Palaiseau, una cinquantina di chilometri a sud di Parigi. Al momento non abbiamo altre informazioni su questa notizia, naturalmente vi aggiorneremo nel prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.